Quindi lui di... Che? Ma no, guardate, la Golona. No, io scherzavo. Ma cazzo, quindi puntata 37. La Barbaro. Che non venite, che non sono più quelli che già ci vengono. E bentornati su Radio Forte 100 Celle Avengers, fatta affidare ad amici. Io pensavo che facciamo un lancio diverso. Mi prendono sempre alla lettera. E niente, quindi con allegria, nonostante questo inizio, e saluto alla mia destra Silvano. Buonasera, buonasera a tutti, aspettando chi deve ancora arrivare. Sottolineo che lo posso toccare, Silvano. Oggi sì, oggi sì, oggi sì, non come l'altra volta. Siamo in presenza, mi dà fastidio questa parola, però si dice. In presenza, e in presenza qui alla mia sinistra, Virginia. Eccomi qui, abbiamo anche l'apparizione di qualcuno che sta arrivando in questo momento. Non si merita niente. Di essere lanciata così. Basta. Oh, Boni, ma portato il caffè. Perché questo era cioè, stiamo in ritardo solo per quello. Questo era proprio il momento in cui arrivavano i saluti all'ospite d'onore. No, non è vero, a colei che fa sempre tardi, cioè Gabri. Urla, Gabri, urla. Gabri, dove sei? Ecco, la sentite, vabbè. Sì. La sentite, questo è quanto. Adoro. Mentre coi caffè rovesciati, cioè, io non so cosa sta succedendo oggi. Comunque, che professionalità, c'è troppo sole fuori. Mi impedisce di salutare Betta. Buonasera e buona Pasqua, ma non so se si può dire ancora il portaiella come coi compleanni, come dice il giorno prima. No, vabbè, lo puoi dire. Questa puntata pre-pasquale che vede addirittura l'ospite, che sono emozionato nell'introdurre nuovamente a Radio Forte 100 Celle Avengers. Guido, eccomi, sono qua. Un saluto a tutti e a tutte. Ok, ok, no, l'applauso è dovuto. E niente, ci siamo tutti? Non ci siamo tutti. Salutiamo anche Iron Man e Alexa. Sì. Ok, siamo adesso tutti. E buonasera, niente, cari. Siamo quasi tutti, non dobbiamo salutare. Ma... Sì, va bene, salutatevi. Va bene, no, okay. Ho detto buonasera, finisce là, sono arrivata, ce l'ho fatta. No, uova di Pasqua, grande attesa per il caffè, eccoci. Tutto a non posto. Me la sono presa per il tuo ritardo. D'altra parte è un caso. Va bene, maestro, mandiamo un brano, che facciamo? Che dici? Voi siete meravigliosa, strepitosa, affascinante, coscienziosa, puntuale. Bellissima. E quindi è puntuale l'inizio di questa puntata di 100 Celle Avengers, episodio 37 di questa nostra incredibile avventura. E oggi secondo voi siamo forniti di un tema o andiamo così finché la barca va? Tema. Noi siamo smarriti. Facciamolo senza meglio. Tema. Sì, non ce ne fai l'ultima, noi non ce ne andiamo. Ok, abbiamo un tema molto semplice. Abbiamo lanciato il tema Roma. Roma capoccia. Cioè, veramente non ci siamo risparmiati. Fra un po' il 21 aprile. Brainstorming intenso e questo è uscito. Ma chissà se lo abbiamo rispettato o se oggi comunque comanda Virginia col suo pezzo di carta che all'ultimo ha messo insieme i brandelli dei nostri cervelli. La detentrice della scaletta dice che abbiamo rispettato il tema per una volta. Quantomeno cerco di rispettarlo anche io con il primo pezzo che mettiamo, che un po' cerca di introdurre a suo modo diciamo il tema. Mia cugina la Dodrara, che conosce tanta gente, dice: i cantanti morti non sono morti veramente, sono nascosti a Roma a fa la bella vita, sono stati presi in blocco da una ditta per far vendere più dischi e fai un po' pubblicità. Scolano, c'è sta il chitarra, conosciuto come il voodoo cialdaro, mentre al testaccio c'è trovi ermafrodito, che non smette di cantacce, i campioni siamo noi. A muro torto, a vedi e rastamanno, esce dalle vibrazioni rastamanne. Lui è dice a una pischella de non piangere perché se fumamo il sigaretto con l'amico se la si è. Siamo li mortacci, siamo li mortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi siamo i zombie del mondo a cantare, ospitali del buco, del guardiano del faro. Siamo li mortacci. Cento celle troneggia per vicaro che pappa luba e magna tutti i frutti. C'ha una figlia che gattizza il trilleraro che si chiama Micheletto, ma il negretto non può fa. Ma quando viene sera li portacci dai sette colli scendono in pianura con certi mignottoni da paura. Poi col bagnaccetto nero il refren. Siamo i mortacci, siamo i mortacci, gli altissimi morti. Ma che ci frega, ma che ci importa, siamo sempre più forti. Ci piace sprecia sul raccordo anulare, ma notte per strada c'è invita il canaro a faccia tu spaghi. Prima porta c'è star lucertolaro che con sua madre vuole fare due zombie. Con quattro occhi immaginaro, con il tromba e col vetraro, l'impiccato e il fucilense se ne vanno la perla. A freccene dar piscina, a falisazzi rotolare. Siamo i mortacci, cadanti feretri. Quando trapassi, vai sotto due metri. Vuoi fare domanda per fare il ritorno per una domanda per il giro del mondo e tu resti feretro. Feretro, feretro, feretro, feretro, mortacci, feretro, feretro, mortacci, retro. E di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers abbiamo ascoltato Li Mortacci da un attore assolutamente romanissimo di sette generazioni. E sono gli Elio e le Storie Tese, che danno un po' una misura anche un po' di come io stesso che lo proposi, presi il tema, cioè con una certa leggerezza, ecco, perché non mi sento molto romano al di là di come parlo, e quindi era un, diciamo, una cosa perché comunque questa città alla fine accomuna molte cose, generi musicali, ci dava diversi spunti. Introduce bene. Non ti devi giustificare, no, per aver trovato questo tema. A me piaceva invece questa verve un po' così, sì, simpatica. Prendevo già le distanze, vabbè, esatto. Scusate, io perché poi ho le mie come dire, radici. Hai montato il microfono su un ambigue guanto per amplificarlo, per fare una puntata sui colori associati alle gemme dell'infinito, e non va bene il tema Roma. Ti butti sempre giù. Ah, esatto, ecco, come ci ricorda Alex. Ma questo non è il momento di buttarsi giù, no, è il momento di infatti, dare i contatti. Quindi dicevamo me, sì, quindi tema vasto. È la sigla dei contatti. Gabri adesso, cioè, vi dice nemmeno, i contatti. Nemmeno così a tradimento. Allora seguiteci su Twitter. No. Seguiteci su Facebook. Ma ci possono mandare Instagram. I fax. Instagram. I piccioni viaggiatori. Cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla. seguiteci su Telegram, oh, così come ci suggeriva questa carinissima sigletta che abbiamo mandato, perché ecco, vasto è il tema, dicevo poc'anzi, come vasta è la platea degli ascoltatori e delle ascoltatrici che vogliamo raggiungere, speriamo di raggiungere. Per questo vi diamo questo contatto, che è decisamente il principale, direi, perché se non altro è quello che utilizziamo di più, sul canale Telegram t.me/100celleavengers. Cliccate e seguiteci, ecco. Secondo me è Radio Forte 100 celle Avengers. Radio Forte 100 celle Avengers, perfetta. Vabbè, perfetta. Diciamo che sono passati 2 anni, io ancora non ho capito se c'è Radio Forte / 100 celle Avengers o meno, perché alcune volte mi compare in un modo. Vabbè, questa e cosa la dice lunga, perché sei quella che dà i contatti, perché comunque abbiamo deciso la gente si deve immedesimare nell'utente medio e tu fornisci questa. Vabbè, da qualche parte lo trovate. Ma comunque il motivo era che io me li scordavo sempre, perché all'inizio ho provato a farlo per me, ma eri molto più brava tu, quindi... Ma possiamo anche scambiarcelo questo ruolo, arrivati a questo punto, Silly. Vabbè, la verità è che ormai tanto i motori di ricerca sono talmente intelligenti che voi nominate anche solo 100 celle Avengers 3 volte, il vostro telefono già ve lo fa trovare come risultato alla C. Sì, Iron Man, è così, e sei stato tu. Detto ciò, che cosa succede, Virgi? Aiutami, ti prego. Prendi. Cosa succede? Che avevi... Il timone. Il timone è mio. Avevi deciso di mandare di introdurre l'argomento mandando un bel pezzo che ti può rappresentare. Vabbè, avevo deciso di festeggiare anzitutto il ritorno, diciamo, in questa sede, non diremo presenza, ma comunque nella sede della Radio Forte, anche se è stato bello sentirci in differita, un grande revival, però anche basta, anche di nuovo qui, anche se c'è un'escursione termica notevole fra la regia, diciamo che la primavera è un po' il periodo peggiore per fare le puntate radio al Forte, perché fuori c'è il sole e qui si gela. Detto questo, c'è l'inverno, è rimasto l'inverno. State già chiamando Giorgino? Non ancora. No, Giorgino, no, con questo probabilmente... hai voluto anticiparci. Okay, anticipare il fatto che in realtà gli avevo detto anche ci collegheremo, faremo una prova di collegamento, non ve l'ho detto, ma vabbè, no, ve lo dico adesso, bellissimo. Comunque avremo anche forse il meteo del mentiroso in quello che riguarda l'attualità. L'attualità è anche appunto che è finita questo isolamento e niente. Quindi la situazione è comunque che adesso Gabri può entrare nella stanza. E quindi è finita la pacchia. Adesso siamo di nuovo... diciamo a contatto. Culo e quindi, a camicia. E quindi che succede? Che stamattina avevo mangiato una yo-yo e niente, cioè sono stato praticamente svegliato da lei, che è stata svegliata dalla mia fiatella del dopo, perché io, cioè, la yo-yo l'ho mangiata dentro il letto, proprio a contatto col cuscino, e quindi questo ha creato un ecosistema per cui stamattina la stanza trasudava di aglio e di olio, e io stesso mi sono... Vabbè, niente, quindi ti butti sempre giù. Grazie Alexa che intervieni. Sì. Okay. Abbiamo detto tante volte che i panni sporchi non si lavano, cioè dove... Vabbè, si lavano in radio. Fa parte dell'attualità e dell'essere, certo, tornati. Cioè, prima avevamo steso cavi per parlarci a distanza, ti ricordi? Cioè, quasi sì, era, sì, era sì, sì. Questa settimana di positività, diciamola così, è stata dura, ci ha messo a dura prova, come diciamo tante persone che sono state colpite, ahimè, e da questo virus del secolo, ma ne siamo usciti splendidamente. Infatti siamo qui e ci siamo persi comunque anche un po' gli eventi del Forte, questo volevo dire, che poi hanno interessato praticamente migliaia di persone tranne noi, e che ci portano, diciamo, mi portano a questa ulteriore, diciamo, selezione musicale che si sposa sia col tema di Roma sia col tema di che è successo la scorsa settimana, e che è una dedica underground, che chi la capisce la capisce. E... Fermati un istante, solo un attimo, e ascolta i nostri cuori caduti in questo mondo. Siamo in tanti ad aspettare, donaci la pace ai nostri simili, pane fresco da mangiare. Proteggi i nostri sogni veri dalla vita quotidiana e salvali dall'odio e dal dolore. E a noi che siamo sempre soli nel buio della notte, occhi azzurri per vedere questo amore. Queste 100 c'è la Avengers. Radio Forte 100 c'è la Avengers, mentre prende fuoco la regia, e salutiamo Antonello che ci segue sempre e ci regala i suoi spottini. E credo che sia il momento di dare la voce alla mia destra, al buon Silvano. Ah, davvero? Già tocca a me. Bene, allora posso dirlo, maestro? Lo dica. Sigla! Sì. Ascolta Tommy con una candela accesa e vedrai davanti a te il tuo futuro. Allora, buonasera a tutti. Oggi per Simply Sampled mi hanno detto di parlare di Roma e chiaramente io ho preso un autore che è di Torino. Posso dirlo? Bravo. Ma come? Bravo, bravo. Mi pare chiaro. Ma magari del Torino. No, chissà, no, no. Pensavo a sta cosa di Franchi. No, no, no, è proprio di Torino, poi è cresciuto vicino a Caserta, insomma, c'entra niente con Roma, però. Sì, ma c'entra perché? Beh, c'entra perché oggi parleremo di un suo pezzo in particolare, il cui video è girato a Roma. Incredibile, vero? E non solo, ma è anche ispirato a un film di Alberto Sordi, Il Tassinaro. Ammazza che hype! E come il tassinaro di Alberto Sordi, sul suo taxi salgono delle persone importanti, certo, non come quelle che sono salite sul taxi di Alberto Sordi. Esatto, non quelli. Però, insomma, ci salgono ad esempio il nostro grande Franco Califano e Marco Giallini, insomma, rappresentanti della Romanità. Va bene, ma adesso bando alle ciance. Stiamo parlando sono distratte qua la regia. Non vi preoccupate. Comunque oggi stiamo parlando appunto di questo uomo torinese che è proprio Frankie High Energy. Frankie Energy è stato il primo a pubblicare un album hip hop per una major, oltre a fare il primo brano mai uscito per il pop per una major in Italia, e ha collaborato insieme da Ice One, che poi è, vedi, sempre per tornare a Roma, anche lui di Torino, però che fa parte del collettivo dei Colle del Fomento, per fare questo brano di cui parleremo oggi. Ma prima sentiamo i sample da cui è stato, con cui è stato composto. E questo è il primo sample, che sarebbe Nicole Curasil, che praticamente è una, chiaramente una cantante francese che tutti conoscono per Un Homme et une Femme, che sarebbe quella classica canzoncina che va in tutti gli ascensori del mondo. Na na na la la la la la la la la la. Perfetto. Quella, ma che ascensore, esatto, c'hai a casa tu? Io non ce l'ho, ma magari sta a 100 celle. Ma chi ce l'ha l'ascensore a 100 celle? E oltre a questo campione poi ce n'è un altro. Prego maestro, dalla regia. Eccolo qua, che invece è il campione di Jimmy McGriff del 68, che era un trombettista bebop, come si sente benissimo. Ma dai. Forse avrete capito di che pezzo andremo a parlare. No. Il pezzo è Quelli che ben pensano. Mi sembra abbastanza evidente Frankie dai due. Energy. Esatto, di Frankie Energy, scritto insieme a Riccardo Sinigaglia. Riccardo Sinigaglia, un altro che effettivamente di Roma, sempre per fare quello che e si collega c'è a Roma. Non mi spoilerare. Uno c'è, che ha fatto tantissime cose, produttore, tutto quanto, ma tanto poi ne parlerà anche Gabri dopo. Quindi a questo punto... Invece il Pischello Vocalist, io non mi ricordo mai, però pure quello era di Roma, no? Quello... No, è proprio lui, è Sinigaglia. È Sinigaglia, è Sinigaglia. È Sinigaglia. Okay, sono che oltre, era per Pischello Vocalist. Sì, che oltre ad essere oltre ad essere il vocalist del pezzo, è anche regista insieme a Frankie Energy del video. Cioè io l'ho visto con pochi capelli, vabbè. L'hai visto un po' di anni dopo, devo dire. Ma prima di mandare il pezzo posso dire anche un'altra cosa, non so Silvi se eri a conoscere. Ah, sì, scusa. Cose da dire su Riccardo, però c'ho paura di su Riccardo, io volevo dire che il pezzo che stiamo per ascoltare, appunto, Quelli che ben pensano, ho scoperto che è stato anche rifatto da Fiorella Mannoia. Sì, guarda, una versione oscena, ma non solo è stato rifatto da Fiorella Mannoia, che ha fatto proprio la cover, ma pensa che è stato utilizzato il sample da Marrakesh per fare un altro brano. Speriamo che DJ Nervo non ci stia sentendo. Cioè, se noi continuiamo, cioè peggioriamo sempre di più. Ragione, è bellissimo. È come la nostra sigla del facciamo... Ma a questo punto direi di mandare il brano. Quelli che ben pensano, tratto dall'album del 97, Morte dei Miracoli. Fino adesso sono andato bene. La sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel

lo scodinzolo dei cani, campionato il coccodrillo, campionato il gufo con gli occhiali, campionato la luce di un mattino, campionato campionato il mondo, campionato campioni ogni nota che sento. E oggi a Campioni del Mondo, inseguendo sempre la chimera di mantenere il tema e il focus della puntata, pensando a Roma e pensando a quanto anche Paul e Michi ci hanno fatto scoprire in passato sull'origine dei cori, i cori da stadio che alla Roma, diciamo, se ne fanno tanti alla Roma. Non si può parlare di Roma senza parlare della Roma. Non si può parlare di Roma senza parlare della Roma, ma non volevamo parlare della Roma se non dell'appunto appendice musicale che sta sotto, che ci ha intrigato in passato, laddove, che ne so, abbiamo scoperto esserci dei brani insospettabili, insospettati, mai banali, dietro, mai banali, dietro ai cori, quali ad esempio tornerete in B come Napoli, you are not alone, erano delle cose che neanche gli ultra avrebbero pensato in realtà fra di loro. E quindi in questo immaginario io c'avevo dei miei immaginari da bambino, che però si prestavano, perché comunque il coro da stadio c'ha bisogno di un caricamento a pallettoni, cioè il capo coro deve lanciare il coro e dare il tempo agli altri di capire che coro sta partendo, quindi sarebbe tipo nel cervello soltanto la roba, cioè prima il BPM è basso, poi sale per poi unirsi il coro, come ad esempio mi sento male, la che è un po' più tipico del forte, se vi capita di sentire la partita. E quindi su Alice del Paese delle Meraviglie io trovavo che ci fosse un, no? Sì, un coro da stadio inedito, oh, diciamo. Con l'intro nel cervello soltanto la Roma, il mio cuore batte. Vabbè, questo era il tema comunque che volevo lanciare a Campioni del Mondo, che forse pochi capiranno perché non andate allo stadio, regà, e manco io. Però infatti i cori di cui parlo poi sono ormai datati di circa 10-15 anni. Virginia lo può confermare. Beh, sì, sì, sì, sì, matrona romana. Avevo la buona mente all'epoca. Questo è il clima di comunque di sbarazzino che volevo creare per andare verso Gabbi, verso i cigni di Palagà, che sono il mio terrore come di consueto. Tocca a me. Credo di sì, perché non, cioè, non lo so, vogliamo ascoltare un po'. Bellissimo essere introdotto dal Meriggio d'Or. Nel Meriggio d'Or io lo sfumerei comunque. Sempre... Ma allora secondo me, se diciamo mi dai conferma che hai trovato quei brani che io poi manderò, vabbè. Guarda, io ti posso garantire la sigla, perché quello è il mio... Ce l'abbiamo, bene. La sigla ce l'abbiamo. E allora, Cigni di Balacà, sigla. Vado bene fino adesso. Bravo Guido. Ma non lo senti? Che è uguale ai cigni del Balagà. Balagà. Albana. Bentornate. Allora, abbiamo detto qual è questo focus che oggi così incombe su di noi. Roma. E tema vasto, sì, perché se ne potrebbero dire tante, ma abbiamo già, diciamo, consigli poco fa, accennato a quello che di cui si occuperà Cigni di Balagà. Di artisti romani in particolare parliamo di Riccardo Sinigallia questa volta. Sì, perché c'è un legame speciale tra Riccardone e la sua Roma, e un legame che chiunque sia dotato di sensibilità ha certo avvertito nella tappa della tournée tenuta al Circolo degli Artisti, affollato ma non pieno da scoppiare. Cito testualmente ciò che si legge nei rotocalchi a proposito di questa serata, che correva l'anno 2006 e io ero al primo anno di università all'epoca, e ma appunto si legge nei rotocalchi, nelle riviste, che fu un'atmosfera, ci fu un'atmosfera di complicità, di partecipazione. Insomma, un artista a tutto tondo molto apprezzato. E Suonone, se ricordi, lo abbiamo anche visto insieme a Renoiz, se non dico una... Sì, era quello che dicevo prima, che era un po' diverso da quello del video di Frankie Energy, per quello. Eh sì, era cresciutello, diciamo. Sì, meno capelli. Mi pare fosse il 2019 o il 2020 addirittura, non so, comunque fu un bel concerto, perché Sinigaglia, che è un cantautore, un musicista, produttore discografico, che nasce a Roma negli anni 70 e fin da adolescente si appassiona di musica. Pensate, appena 12enne comincia già a scrivere le sue prime canzoni e inizia un periodo di apprendistato su registratori a quattro piste, batterie elettroniche, chitarre e tastiere. E verso la fine degli anni 80 poi inizia a farsi notare nell'ambiente underground capitolino e comincia a presentare canzoni inedite e scrive, suona e canta anche con Frankie Energy, appunto, e, nei centri sociali della capitale, nei club, e quindi per tutti gli anni 90. La fortuna lo raggiunge poi nel 2000. Quando, come i più sapranno, contribuisce a far sì che il gruppo dei Tiro Mancino acquisisca una certa fama, diciamo, a livello nazionale, grazie al brano La descrizione di un attimo. Oh. Un disco è un brano di cui cofirma la produzione e oltre anche a, ad esempio, un altro brano, Due Destini, che saranno i titoli di coda del film Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek, e anche Strade, con cui partecipa in duetto al Festival di Sanremo, sempre nel 2000, conquistando il secondo posto della sezione giovani. Quindi, oltre Sinigaglia, oltre ad essere un bravissimo e riconosciutissimo produttore, ha segnato la storia della musica come cantautore, e ciò appunto ce lo dimostra anche il successo che ha raggiunto a Sanremo nelle sue partecipazioni sanremesi. Ci avviciniamo quindi al core di questo mio Cigni, e, perché lo ricordiamo, tratta di plagio, certo, ma okay, lo sanno tutti oramai, scusa, plagio musicale. No, però ancora prima di questo c'è questa piccola chicca, aneddoto, diciamo, perché a Sanremo lui torna nella seconda volta nel 2005, dove lo vediamo duettare con Marina Rei nel brano Fammi Entrare. Ah, partecipa anche a diverse edizioni del concertone del primo maggio, quindi non, forse non è ai livelli dei Modena City Ramblers. Sì, incredibile, però e ne è sicuramente uno dei maggiori esponenti. E quindi anche nel 2014 infine torna al concertone del primo maggio e riscuote un grande successo, anche ben meritato, ma soprattutto un successo che era ammantato da quelle voci e dall'eco delle polemiche che erano state suscitate proprio nel corso del Festival di Sanremo, che era appena trascorso. E durante la partecipazione, quindi nel 2014, a Sanremo, Sinigaglia partecipa con il brano Prima di andare via. Tuttavia non andò bene questa sua partecipazione. E perché? Cosa successe? Io a questo punto volevo che ce lo raccontassero, diciamo, la viva voce dei conduttori del festival. È possibile. È possibile. Ho il 50% di possibilità di mettere grande quella giusta. Li abbiamo invitati. Vediamo se è quella giusta, se no te lo rettifico al volo. Sentiamo quindi la voce. Pomeriggio. Giusto. C'è stata l'esclusione, con molto rammarico, ci mettiamo un pochino più al centro, della canzone, peraltro bellissima. Di un po' come per proteggermi da una tua malinconia. Cosa? No. La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano. È stata eseguita prima in pubblico, invece era già stata eseguita nell'estate scorsa da Riccardo Sinigaglia e quindi non si può far altro che escluderla. Io però vorrei chiamare Riccardo Sinigaglia. Riccardo, serata in un contesto peraltro di beneficenza, quindi non a scopo di lucro, insomma, però il regolamento come si vede. Sono tanti anni che suono in piccoli locali e non avevo mai avuto tanta attenzione. Per 30-40 persone. Non l'ho mai notato. Mai. Quella volta c'erano. Quella volta. Un pomeriggio c'erano 300-400 e io ingenuamente, su una richiesta di un mio amico molto caro, a cui avevo fatto sentire la canzone, a cui voglio tanto bene, è un grande scrittore tra l'altro, e, feci questo pezzo. Con la chitarra. Quindi, senti Riccardo, no, però tu hai comunque sino a domani la possibilità di fare ricorso, di produrre, se insomma siamo qua, nel senso che se tu hai da rimostrare qualcosa siamo a tua disposizione. Intanto io sono stato molto bene. vi voglio ringraziare per avermi dato questa luce che erano tanti anni che non avevo. E non farò ricorso. Non farà ricorso. Grandissimo, grandissimo. Grande. Ma un dramma in atto. Capite? Evidente trasportato nella cronaca nera. Nera. No, che stava per tingersi di nero. In realtà lui, ecco, non ha fatto questa figura un po' barbina, direte voi, ma in realtà alla fine ne esce più che pulito, con una grande dignità, diciamo, riconquistata. E perché annuncia pubblicamente a Sanremo che non farà ricorso per la sua esclusione. Ecco. Tuttavia, che succede? Che poi alla fine il pubblico, la critica, non fu pago di questa, diciamo, appunto, di questa polemica, scandalo, spenso, che si è spento così prontamente. E quindi diciamo così, che la critica resta sempre assetata di scandali. Perciò che successe? Da lì a poco non furono pochi, appunto, scusate la ripetizione, a notare la netta ed evidente somiglianza. E andiamo, quindi passiamo, più mi avvicino all'argomento più, che più mi compete, quindi quello dei plagi, la netta somiglianza fra il brano sanremese di Senigallia, quello di cui abbiamo appena parlato prima di andare via, e la celeberrima canzone che ha segnato il successo dei Tiro Mancino, l'abbiamo detto poco fa, La descrizione di un attimo. Eh già, Iron Man, sì, è proprio così. Chi l'avrebbe mai detto? Interpretata da un ottimo Federico Zampaglione, leader e cantante della band romana, e con cui tra l'altro lo stesso Sinigaglia ha avuto diverse collaborazioni. E, c'è da dire intanto che Riccardo Sinigaglia lo ricorda anche molto nel look all'amico Zampaglione, e, capello arruffato, baffo incolto, con quest'aria da sognatore, ma appunto, a dire di alcuni, non è solo l'aspetto fisico a ricordare la band romana. Se ci sentiamo questo breve clip che accosta i due brani, possiamo notarne la somiglianza, poi lo commentiamo. Pomeriggio. No, non è questo, è sempre l'altro. Pomeriggio. Niente, cioè. Allora, guardate, ti sei. No. Mi sa che te sei che un po' autosabotata, perché so lo stesso, è lo stesso praticamente. Niente, purtroppo dalla regia ci hai mandato due file. Ti ho mandato due volte la stessa cosa. Hai fatto un po' come Senigallia, sì, cioè. Quindi non lo avremo, diciamo. No, però volendo abbiamo comunque un rimedio fatto in casa. Cioè. Vabbè, cioè, allora, a parte che noi volevamo sentire, cioè, gli scazzi tra Zampaglione e Senigallia. Io lo senti di chi era la descrizione un attimo. Mo fa la rubrica del gossip. Allora, facciamo così. L'ukulele. Già che la tecnologia non ci assiste, mea culpa. Se, facciamo che mia. Io vi rimando all'ascolto di Prima di andare via, questo brano di Sinigallia, e così a voi il giudizio, ogni valutazione sulle somiglianze eventuali con La descrizione di un attimo, che adesso andremo ad ascoltare nella versione interpretata dalla nostra scuola di musica, quindi da... Non subito, perché prima serve la sigla. Esatto. Ovviamente, certo. Allora no, vado io prima in conclusione, no, certo, così poi vi lascio carta bianca. Onorevole. Ma era solo questo, appunto, tu dicevi che volevi lo scherzo, io lo sapevo che tu volevi sentire lo scherzo. Non lo so, mettici un altro po' a dircelo. No, e beh, abbiamo appunto concluso. Abbiamo tutta la musica. Quindi questo amaro tradimento, diciamo il gusto amaro del tradimento, lui se l'è portato appresso poi per tanti anni, e io sono andata a ripescare questa le dichiarazioni di Sinigallia, che diceva che appunto il massimo è quando mi si accusa di aver copiato Tiro Mancino. Ora quasi mi ci diverto, ma prima era una fonte di irritazione e di sofferenza. Quando La descrizione di un attimo è esploso, i nostri discografici, lui si riferisce ai discografici appunto dei Tiro Mancino, di cui lui inizialmente faceva parte, che fino a quel momento non avevano mai creduto in quello che noi tre avevamo costruito, si sono presi Federico sotto braccio e lo hanno persuaso che era il nuovo Giacomo Leopardi, invitandolo a non curarsi di noi. Beh, ci si rimane male, purtroppo la gloria più che i soldi cambiano la percezione delle cose e delle prospettive. E se non che alla fine, vabbè, attacca un'altra bella pippa che no, salto a questo punto, dice: ognuno di noi ha scelto la sua strada, avrei da recriminare dove più o meno solo sulle modalità di interruzione di questi rapporti, ma è così che va la vita, acqua passata. Quindi non c'è rabbia. In conclusione, ad onor del vero, dobbiamo dire che non ci fu un'ipotesi di plagio, ma neanche né di accusa di contestazione da parte degli altri coautori del brano. E sul piano dei diritti chiudo solo con questa nota, dicendo che poi in fondo lui è stato coautore della descrizione di un attimo. Esatto, il caro Sinigallia. Quello devo dire dall'inizio. Vabbè, io faccio hype. Quindi è un po' come plagiare, cioè, esatto. Se plagia da solo, praticamente. Bravissima, esatto. Quindi non c'è tanto da stupirsi, e, appunto, perché avrebbe tutti i diritti, essendo coautore del brano, di plagiare se stesso. E con questo, anche con il livore passato, diciamo, trascorso così, e l'acqua che è passata sotto i ponti, cedo la parola A me che lancio soltanto la sigla di 100 celle Marcord. Ricordati di te com'eri prima. Un'estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Un'estate fa. Ti ricordi. Un'estate fa. Tutti quanti stiamo già aspettando. Un'estate fa. Messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Un'estate fa. Ricordati di me. Ecco la rubrica 100 celle a Marcord che racconta i saggi che non ricordavi di aver fatto, la descrizione di un attimo. Descrizione di un attimo, condizioni che cambiano. Crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare. Vedi che dividersi nella vita sia normale. La mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri. La sensazione che un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. Cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo dopo quasi 5 anni. Fai come sempre sei, descrizione di un attimo per me. Fortissima successo, aspettami, Radio Forte, 100 Celle Avengers in diretta alle 17.49, quasi se ne sfila via la prima ora di divertimento su Radio Forte, che arriva l'attualità a segarci le gambe. No, non è vero, l'attualità qui a 100 Celle Avengers anzitutto si riferisce a informazioni utili che diamo noi ai navigatori del sabato, che comunque oggi non c'è niente al Forte, mi pare, giusto? Ci siamo noi. Vabbè, però insomma, comunque ci sei venuta briste. Tendenzialmente la rubrica che appunto passa per il meteo del mentiroso, che ha anche una sigla, era appunto per dare informazioni ai viaggiatori. Sigla. Parte il mentiroso, parte il mentiroso, se olvidó de contar las muchas cosas sobre su vida sabrosa. Parte el mentiroso, parte muy sabroso, le hizo mal olvidar la verdad. E niente, oggi Jorge purtroppo non è con noi un'altra volta, e gli avevo detto pure ci facciamo un bel collegamento da Napoli, invece niente, ride. È più facile farlo da casa che farlo dalla regia, dal nostro quartier generale di 100 Celle Avengers. Questo è la verità, purtroppo, però questo non ha impedito a Jorge di mandarci un suo contributo, giusto Guido? Comunque do anche un po' la parola a te, perché sai di cosa parliamo sull'attualità. Io ho voluto te perché appunto è un po' come che tutti adesso hanno l'analista, prima c'era il virologo in studio, adesso c'è l'analista di geopolitica e noi abbiamo Guido. Sì, ma io non so niente, io non voglio dire cose sconvenienti, quindi io a domanda rispondo. Tanto ti mutano niente, lo stesso. Sta chiuso a riccio. Cioè, lo stai facendo apposta. Sta chiuso a riccio, io ho paura di quando si apre il riccio, però. Quanto fa 3 più 3? Anche questo non è stato concordato con il mio ufficio stampa, io non vorrei dirlo, cioè, ma posso anche rispondere, ma andiamo al dunque. No, è vero che non abbiamo concordato le domande. Comunque potresti, se non altro, aiutarmi a lanciare il contributo che da lontano Jorge ci vuole. Jorge è qui presente, scusate, lo sapevo che io non collegavo Gizzi e Jorge mi fregava così. Ma quando mai hai collegato Gizzi? Posso molto banalmente avvicinare il mio cellulare al microfono, vogliamo vedere cosa succede. Jorge, mamma, vuoi parlare? Mia. Che paura. Vabbè, intanto, oltre a questo caramba che sorpresa, potrei mandare il contributo che Jorge ci ha comunque mandato. Ok Google, meteo. In questo momento a Napoli ci sono 21 gradi e sole. Oggi sarà prevalentemente soleggiato, con una massima di 25 gradi e una minima di 12. Ebbene, oggi quindi Jorge, come ci spiega Google, è a Napoli. E beve il caffè, lo vediamo che sorseggia un ottimo caffè. Ma dici Giorgio, è buono questo caffè? Purtroppo la difficoltà di costruire una puntata tutta all'ultimo, con gente che arriva all'ultimissimo, mi ha impedito, Giorgi, purtroppo, di collaudare la chiamata, che di solito è sempre qui disponibile con i potenti mezzi. Poco fa ho cercato di fare cose, che continuo a gesticolare, ma poco fa ho rovesciato il vino, quindi ho paura di provare a collegarmi. Facciamo che Gabri veramente avvicina, incredibile, 100 Celle Avengers, esatto, il telefono è disorientato. Okay. Eccolo, ti sentiamo. Giorgi, ti sentiamo più o meno male, ma va bene, ci vuoi dire qualcosa sulle condizioni meteorologiche, però al Forte, tu sei a Napoli, ma sappiamo che la stazioncina... Al Forte, sì, un attimo. No, come un attimo, cioè, senza tempi radiofonici. Ma sì, Giorgio. Intanto dici se stai bene. 72 gradi Fahrenheit, ovvero 22,3 gradi centigradi. Bene, Il vento ha delle raffiche di 6,8 km all'ora in direzione nord-nord-ovest. Del nerd. E il punto di rugiada è 7,7 gradi, se vi interessa. Oh, no, a me interessa molto, come sai. L'umidità è 39%, quindi molto bassa l'umidità. Approfittate per stendere il bucato. E noi abbiamo asciugato il cane. 10,46 ettopascal o millibar, che dir si voglia. Ah, come vuoi tu, guarda. Cioè, farei un applauso a questo collegamento. Bravissimo. Comunque reso possibile anche da Gabri Gruppi, la giornalista che non si lascia fermare da quisquilie tecniche. Lei sta inviata sul campo. Tu e stai lì che pensi ai cavi, alle cose. Lei, tac, lei esatto. È andata a Napoli. Analogicamente parlando, in barba a tutti. Comunque avevamo Guido qui con noi, Jorge, ospite insieme a te. Mi stanno censurando. censurando. No, ancora, ancora, ancora non, non vuole parlare. Ancora no, perché io ho paura a parlare. Io cioè, ti mi dico, intanto che c'è Guido, che noi comunque abbiamo sponsorizzato sinceramente e con gioia nelle puntate passate, l'abbiamo praticamente presentato per quello che è, appunto, un artista visionario, un... diciamo artista che si esprime in varie poliedrico, poliedrico, ecco, non mi veniva perché appunto facciamo radio e polivinilico per due volte l'abbiamo sponsorizzato per le due trasmissioni che già ha sviluppato all'interno di Radio Forte e oggi non lo famo parlare. Siamo qui a... grazie Guido. Fino adesso sono andato bene, fino adesso è andato benissimo. Non ho detto tuoi sconvenienti, vero? Sappi che io so qual è il tuo canale e so quando poterlo mutare, quando voglio. No, cioè, questo comunque è bullismo. Io sono sotto schiaffo qua, cioè veramente la mia libertà è ristretta ai minimi termini, cioè non so, cioè non sono una persona libera in questo momento. Vabbè, ora hai tutto il tempo. Vabbè, comunque sì, prego. Fammi la domanda, io domanda allora, rispondo. Noi abbiamo sentito, abbiamo sponsorizzato Pancrazio. Andate in onda nel... Allora, il programma non si farà più. Ecco. E adesso devo anche spiegare una cosa. Lo spiegherò, però vorrei che questa parte venga cancellata dal podcast, perché non voglio che rimanga posteri. Premesso che tu sei la punta di diamante di questa radio, quindi vai. Vabbè, deve essere cancellata perché io devo ammettere perché la ragione, devo dire la ragione, è colpa mia, è solamente colpa mia il motivo per cui non si farà il programma. Sei un signore come Senigallia. Bravo, cioè, bravo. Vuoi fare ricorso? No, perché io avevo sviluppato un programma con dei contenuti, con delle forme nuove e poi avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse nel realizzarlo e Cobol si è offerto di farlo, ma solamente per pura amicizia. In realtà non era un programma che non gli andava bene come contenuti, cioè non era nelle sue corde e io invece ho forzato la mano e quindi è solo errore mio. Va bene, quindi... non fare così. Esatto, cioè non volevamo. Quindi noi abbiamo spinto una cosa che poi non è andata. Volevamo anzitutto un raggio di speranza che tornasse Pancrazio anche con un altro nome, perché ci piace la roba che cambia nome, cambia sigla, cioè non è quello il problema. Quindi lasciaci anche un po' quello spiraglio lì. La speranza è l'ultima a morire, come... Tra l'altro poi il tema secondo me è ancora attuale, perché in realtà col tema, il tema principale di Pancrazio era voler celebrare il forte, la doppia natura del forte, cioè la natura emotiva, istintiva, rappresentata dal concetto di punk, questo intendevo come punk, e la natura razionale invece molto attenta a come realizzare le cose, specie questa seconda parte, la natura razionale che molto spesso non viene comunicata e quindi all'esterno viene conosciuto solo un aspetto del forte che è solo la metà. E il bello di Guido è quando ti va sul serio e tu non te l'aspettavi, no, in realtà ce l'aspettavamo. E infatti noi comunque l'abbiamo chiamato per fare questa apologia della trasmissione persa, ma in realtà lui si presenta con diciamo quella che io ho definito la guida di Guido. E in realtà qui tocchiamo un altro punto invece, dove io ho cercato di rinnegare i miei valori, i miei principi, le mie attitudini, quello sempre di trasmettere contenuti e avevo realizzato insieme a Cobo degli spot pubblicitari, perché volevo vendermi l'anima. Io volevo questi spot, lo scopo di questi spot erano spot veri, non finti. Pubblicizzavo delle attività che venivano svolte al forte e vendevo l'anima per un piatto di minestra, cioè veramente era un do ut des. Vabbè, sì. No, era realmente così, non è vendere l'anima per un piatto di minestra, non è una metafora, era proprio in senso tecnico del termine. E quindi mi ero avvicinato a questi alcuni soggetti che sviluppano delle attività all'interno del forte, che producono degli alimenti sopraffini, e gli avevo detto: posso pubblicizzare i vostri prodotti in cambio di una salsiccia, di un... Ma non ci dire quanto ti hanno mangiato. Noi parliamo ovviamente di posti diversi di Roma che uno può andare a visitare. Per esempio, se uno... cioè, la guida di Guido dovrebbe essere: se io volessi mangiare, diciamo, volessi una taverna, dove, cioè, tu ci avresti un'indicazione. Ah, se siete per sbaglio in zona Centocelle, non ho dubbi alcuno, su nulla dubitazione, io andrei alla taverna del Forte Prenestino. Taverna Forte Prenestino, dove il vegano non è un marziano ed il cibo è spaziale. Bene, bene, geniale! Bene. Non viene, cioè, bussa coi piedi comunque Guido. E cioè, questo se volessi mangiare, ma se volessi invece quella cosa un po' più meditativa, magari un ammazza caffè, ma anche un caffè, un dolcetto? O anche una tisana, un infuso, magari siete in compagnia di una persona a voi cara, volete un ambiente caldo, accogliente, volete con questa persona chiacchierare, trasmettere le vostre emozioni, i vostri sentimenti, e volete appunto un luogo che vi aiuti, vi faciliti in questo, allora il luogo ideale è... Sala da tè del Forte Prenestino. Infusioni, diffusioni ed effusioni. Cioè, ho capito bene che era il Forte Prenestino pure questa. Esattamente, sì, perché qui è cioè, una struttura... Gambero Rosso l'ha vinto il Forte Prenestino su due... Cioè, veramente... No, è una struttura particolare il Forte, perché riesce a soddisfare esigenze diverse, in questo caso l'esigenza del vegano, l'esigenza di chi invece vuole un luogo più caldo dove prendere un infuso. Tra l'altro anche sarebbe da rivelare anche una verità, vorrei posso dire una cosa, no? Nel senso che certo. In realtà gli esercizi che abbiamo coinvolto in questa per queste pubblicità tenevo conto anche di esigenze del mio amico Cobol, quindi in realtà in particolare la taverna era nata da un'esigenza sua di avere del cibo vegano, e quindi siamo andati da loro e abbiamo detto possiamo fare lo spot, e loro hanno dato l'ok. Sempre a rivelare dietro le quinte delle cose quando c'era stato un bel momento, ma ti volevo chiedere se io volessi selezionare, soprattutto ritrovare il vino che qualcuno mi ha fatto sparire da sotto il naso mentre parlavo, come potrei risolvere questo problema? Ma non solo vino, qui ti interrompo perché nel luogo che sto per introdurre non c'è solo il vino, ma c'è dell'ottimo cibo pazzesco, anzi se dopo ho anche dopo la pubblicità degli attimi in cui posso spiegare alcuni alimenti che mi hanno particolarmente colpito, io vorrei utilizzarli, perché non vorrei neanche eccedere, non vorrei sforare per non sforiamo per non essere censurato poi gli equilibri, i certosini equilibri della trasmissione, ecco. Nel frattempo al tuo segnale scadrà l'inferno, io alzerei anche un po' il volume dello spot che ci terrei. Va bene. Enoteca Forte Prenestino, dove anche il cibo ti avvicina al divino. E niente, cioè... professional. Veramente si presenta a Centocelle Avengers come di solito ci si presenta per aprire una rubrica, vero Guido? Eh sì, esattamente. Continuerà questo. La guida di Guido, troverai altri posti oltre a Forte Prenestino per mangiare e bere. Assolutamente sì, io penso di essere in grado. Se voi, stesso problema, se voi ritenete che io possa svolgere questo ruolo, non voglio essere forzare la mano. Cioè, ma quindi io non ho capito, tu vai adesso hai girato qui per avere queste sponsorizzazioni e quindi per mangiare e bere a gratis, se ho capito bene. Esattamente, sì, hai capito bene. E quindi quello a quei punti è andare anche fuori da qui e fare la stessa cosa. Sì, infatti io vorrei aumentare l'audience del programma in modo che posso anche avere più appeal nei confronti di altri esercizi esterni al Forte. Vabbè. E poter mangiare sempre in tutta Roma gratis. Io voglio aumentare il mio potere. Sei un signore, Guido. non ti lasciare andare, Guido. Guarda che perché... qua di potente ce n'è una infatti sola. Infatti sì, stai attento alle parole che usi. Perché... Vieni a Virginia uno e poi dopodiché avevamo già previsto uno spazio di grande potere. Con questo che lo vuoi lanciare tu come titolo, diciamo? No, questo non è concordato. Io non, scusate, devo dire che comunque Giorgino sulla chat ci sta facendo intanto degli interventi. Se posso fare questo intervento, prego. Se ci vuoi aggiornare, che dice visto che ma intanto chiede se mi fate intervenire Cicciuz, che è qui dietro di noi con noi. E questo, se Guido si presta, perché in quanto. Diciamo fondatore di Radio Forte di tanti tanti anni fa, questa è una cosa che riporto, ecco. Leggi testuale, non mi guardare perché no, esatto, applausi. E poi chiede a Guido quando la pubblicità della gelateria del Forte Prenestino, ecco, sulla gelateria del Forte, chi vabbè. Si sente di intervenire, prego. Vabbè, entro un attimo io. Ciao Ciccio. Ciao benvenuto, a tutti, benvenuto. Un altro applauso. Beh, è grande, sì. L'applauso è possibile. Devo dire che stavo in giro per Centocelle, avevo le cuffiette e a un certo punto parte la trasmissione e io, come per magia, come seguendo un pifferaio, come un topolino, ho fatto l'estate di Centocelle, ho aperto la porta del forte, ho fatto il tunnel deserto, sono arrivato qua, ho trovato voi. Ed è una meraviglia seguire tutte queste cose, non capendoci tra l'altro una mazza, perché non avendo la cuffia poi tutto quello che va dalla regia non lo sento, però è veramente meraviglia e soprattutto sono stupito dalla capacità di Guido di portarci in questo magico mondo del food e beverage. E quindi alla grande. Si è documentato. Devo dire che questa cosa mi ha fatto venire voglia di lasciare anche prossimamente anche la mia pisciatina, quindi cercherò di produrre qualcosa per contribuire a questa meraviglia. E lo speriamo. Ti ridò il microfono e dagli forte. Grazie, grazie Ciccio. Interventi a non finire in questa puntata incredibile. Oggi è giornata. Grandi ospiti. Alle 18.05 di sabato 16 aprile 2022. Non l'avevamo detto che giorno era. Poi sembra che facciamo le puntate post prodotte. E infatti siamo invece in diretta. È tutto vero. C'è cioè Giorgino che ci vede. C'è cioè un sacco di cose, emozioni che non so se le reggo. Io capace che infarto qua. No, comunque adesso per riorganizzarci, io dicevo Guido che volevo lanciare il tuo, diciamo, sottofondo musicale, la proposta che comunque ti abbiamo fatto fare, perché tutti gli ospiti qui portano anche una proposta musicale. E potevo noi... anche spiegare, introdurre un certo, attimo. No, nelle prossime due ore spiega, prego. In realtà la traccia è sempre a scopo pubblicitario, in realtà c'è un termine tecnico che si chiama product placement. Non ci ripetere quanto t'hanno pagato e sotto che forma. Per favore. E poi in realtà vorrei anche spiegare come a sentire la traccia. In realtà la traccia ha anche... è importante anche che alzate il volume, al contrario, cercate di aumentare i bassi perché è una traccia che vi spinge a ballare. Sempre e buono. Cercate di immaginare di non essere dove siete, ma essere in mezzo a un rave un luogo che ormai non frequentiamo da anni, o in un club. Guarda, c'ho come una mezza età che la sfumiamo, però. No, vai, noi lo mettiamo comunque. E la traccia è basata su un elemento che caratterizza le tracce techno, come tutta la musica da ballo, è sull'attesa, cioè. L'attesa di dell'entrata di alcuni nuovi suoni, in particolare la parte ritmica del basso e la cassa. E quindi è il momento gioioso quando è in un rave, perché è l'attesa di qualcosa che arriverà. Mentre nella vita normale, magari c'è l'attesa di una persona che vorresti che venga, ma non venisse, viene. Venisse. Oppure l'attesa di un pensiero che ti si accende in mente, ma non arriva neanche questo pensiero. Invece al rave, nel club, la traccia, il basso e la cassa arriva sempre, e quindi quando arriva vi darà felicità. Quindi possiamo lanciare il pezzo. E ce la prendiamo tutta, vai. Vai. Brevissimo, sono solo 6 minuti. Vabbè, ma c'è qualcosa da fare. Prenestino, dove anche il cibo ti avvicina al divino. sempre in diretta su Radio Forte, Centocelle Avengers, alle 6.10. Che succede? Che c'è il momento culturale, ma non c'è la maestra un'altra volta. Lo so. La maestra Viola, dove sei? Ma come al solito, bambini, ormai la maestra Viola si è imparata a mandarci i contributi. Esatto, esatto, esatto. Quindi possiamo anche dire sigla. Lasciatemi leggere. Leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. Ciao a tutti i bimbi belli, chi vi parla è la vostra maestra Viola e oggi seguo la scia appunto di questa bellissima puntata dedicata a Mamma Roma e quindi ho pensato di recitarvi una poesia del famoso poeta appunto romano Trilussa, intitolata La libertà. La libertà, sicura e persuasa d'essere stata capita veramente, una mattina se ne uscì da casa, ma si trovò con un fottio di gente maligna, dispettosa e ficcanasa, che gli impedì d'andare liberamente. E tutti gli chiedevano: che fai? E tutti gli chiedevano: chi sei? Esci sola a quest'ora? E come mai? Io so la libertà, rispose lei, per se vostra ci ho sudato assai, e mo che gliel'ho fatta spererei. Dunque potevo fare quel che ci pare, fece allora un ometto, e nel di questo volle attastarla in un particolare. Però la libertà che vide il gesto scappò strillando, ancora non ne ha fare, se vede che so uscita troppo presto. E grazie, grazie per questa opportunità come sempre, vi auguro una buona e serena Pasqua. Ma bomba, e io purtroppo neanche oggi sono con voi, però vi ascolto e vi seguo come sempre e tanti baci. E ringraziamo la maestra Viola che ci ha mandato il suo contributo, perché non si dica che non pensiamo come al solito al lato culturale della faccenda. E non solo, i bambini avevano addirittura suggerito un brano per dire alla maestra Viola che comunque basta fare le cose post prodotte, la rivogliamo qui. Ed eccoci arrivati a un momento che per me è molto molto atteso. È una nuova rubrica, finalmente. Oh. Esattamente. Un'altra? È un'altra nuova rubrica. Se ne sentiva la veramente la necessità. Esatto, ditene di più di queste cose perché ne farò altre. Allora, questa nuova rubrica si chiama All'Epeca e tratterà di tutto il vecchiume che piace a me, in versione, in questo caso, Paolo Limiti moderno. Ecco. Ma non mi dire che abbiamo già una sigla. Abbiamo già una sigla. Qui! One small step for man. È una nuova diavoleria moderna. One giant leap for mankind. All'epoca Roma non c'erano motorini con questi scalmanati, ma c'erano i filobus. A me piace molto questo programma di Paolo Limiti. All'epoca. E niente, vabbè, perché giusto è giusto, sulle sigle io ci tengo e Virgil non delude mai. Beh, le sigle, ma sì, perché semplicemente come non sfruttare il nostro Albertone rifatto che parla proprio di Paolo Limiti, quindi adesso in questo momento immaginatemi con una bella parruccona rossa alla Paolo Limiti che vi parlo di vecchiume. Ora, il vecchiume di questa puntata tratterà di una storia di 2274 anni fa, quindi io direi che come prima puntata ci può stare. Alla faccia. Esatto. Mazza che vecchiume. Stiamo per parlare di uno spettacolo, di un musical teatrale del 1989 che si chiama I Sette Re di Roma. Allora, questo spettacolo è uno spettacolo, perché ne voglio parlare innanzitutto? Perché è una di quelle cose con cui io sto in fissa da quando sono bambina, come quando ho parlato di Amadeus, come Jurassic Park, ecco, quindi probabilmente all'epoca finirà qui, dopo che sarò riuscita a parlare finalmente di questo macro argomento per me. Comunque, stiamo andando appunto a trattare di uno spettacolo di Luigi Magni. Oh, spoiler! No. Spoilerone! Spoilerone! In attesa. Il Nord! La regia non sei stick. La regia è di Pietro Carinei ed è interpretato da Gigi Proietti, all'apice della sua carriera, tra l'altro. E visto che siamo una trasmissione radiofonica che parla di musica, qui stiamo parlando anche di musica, perché le musiche sono di Nicola Piovani. Questo spettacolo è stato rappresentato per la prima volta al Sistina il 14 febbraio appunto del 1989 e vi pregherei di dare un'occhiata, nel momento in cui lo riusciste a vedere, alle scenografie, perché sono veramente wow, soprattutto per l'epoca. Perché mentre io scrivevo questa prima puntata della nuova rubrica mi sono ritrovata tantissime volte a scrivere e a pensare all'epoca, e quindi quale nome migliore? Allora, appunto, è uno spettacolo che parla di una storia di 2274 anni fa, ovvero la storia dei Sette Re di Roma, tra miti e leggende, sconfessando un po' i miti per quello che siamo riusciti a... anzi, che erano riusciti a saperne, appunto, all'epoca, e ci sta anche parecchia, diciamo, istruzione da molti punti di vista. Ci sono parecchie chicche e spiegazioni di quello che noi abbiamo oggi e di come siamo arrivati ad averlo oggi, anche passando per l'architettura della stessa città di Roma. E in questo spettacolo il nostro Gigi Proietti si ritrova a fare non soltanto i Sette Re di Roma, ma ben 13 personaggi, primo fra i quali il compagno storico e il compagno di sempre della nostra città, in questo caso, che è il dio Tiberino. Quindi io innanzitutto manderei una piccola carrellata per farvi capire più o meno come è stato l'andazzo dello spettacolo, com'è l'andazzo dello spettacolo e delle musiche appunto di Nicola Piovani, e dopo qualche dritta. Durive sott'Arcia Nicolo, prima di Roma c'è stavo già. Con l'anni del cu come scrocchiano l'ossa, so vecchio bagucco, sto in pizza la fossa. Ancora di quando tramonta il sole, corcarebbe il masserovolo, resterebbe a guardò. A appunto, adesso iniziamo subito con un sottofondo. No. Acchi per cua. No, maestro, mi sta andando avanti con le tracce, per favore. Grazie. Dicevo, stiamo appunto andando avanti con la spiegazione di questo spettacolo e vi darò ben sette chiaramente, con l'ultimo motivo che è stato rimediato all'ultimo, ben sette motivi per guardare questo spettacolo. Anche su YouTube andrà benissimo, ci sta la versione integrale e quindi potrete guardarla tranquillamente, è una bomba. Motivo numero uno: l'ingresso di Proietti vestito da Fauno Luperco, che ieri ce lo siamo rivisto. Effettivamente la gente inizia a ridere appena entra in scena. È uno spettacolo veramente raccapricciante, l'hanno conciato malissimo, quindi anche senza dire una sola parola Proietti fa già ride parecchio. Motivo numero due: la scena di Romolo. Nella scena di Romolo noi troviamo una citazione coltissima di un monologo teatrale del 1911, sempre all'epoca, va sempre un po' più indietro. E, il monologo in questione è Er fattaccio de Vicolo del Moro, che è la storia di un dramma familiare che viene appunto messo in scena dal 1911 e che, con la storia di Romolo che appunto ha ammazzato il fratello, ci si ritrova parecchio. Oltretutto c'è una chicca molto divertente nella scena di Romolo, perché c'è Proietti che canta, non la so spiegare, io non so spiegare queste cose, non so spiegare nemmeno le barzellette, però c'è una scena divertente mentre canta Romolo in cui lui si autosfuma ma insieme alla musica, è molto molto carino. E quindi insomma Proietti interprete fa, è bello, è bravo, e nel monologo vi darà un cambio di stato d'animo che vi destabilizzerà sicuramente, e poi vi fa pure ridere chiaramente. Motivo numero 3: la storia straziante di cui stiamo ascoltando il brano di riferimento come sottofondo, tra la ninfa Egeria e Numa Pompilio 82enne, se non sbaglio, che si incontravano nel bosco delle Camene, che si incontravano nel bosco delle Camene alla Caffarella, che poi, se voi sapete della redazione, era due traverse da dove abitavo io, no? Ci avete presente? No, sì, esatto, certo. Esattamente. Era noto a tutti. Esatto. Andate a vedere il Ninfeo di Egeria alla Caffarella. E dicevo, motivo numero 4: il racconto di un autentico pranzo romano da parte di Tullo Ostilio, terzo re di Roma, dove ci spiega che cos'è il garum. Il garum, praticamente, come viene spiegato appunto nello spettacolo, ma non so se lo sapete, insomma, è una sorta di intruglio di interiora fermentate di pesce. Bene. E niente, era una cosa che serviva per insaporire, e il racconto di Tullo Ostilio che racconta il garum gli fa schifo pure a lui. Allì. Motivo numero 5: tutta la storia degli Orazzi e dei Curiazzi, che sono riuscito a pronunciarlo bene, mi merito un applauso fatto da sola. Grazie a me. Orazzi Curiazzi, è difficile. Orazzi e Curiazzi. Orazzi e Curiazzi. Sì, perché poi nella storia degli Orazzi e dei Curiazzi, che l'ho ridetto bene ma non mi rifarò l'applauso, ci stanno un sacco di personaggi, ma sono tutti quanti Orazzi e tutti quanti Curiazzi, perché non c'erano i nomi, c'era soltanto la famiglia di appartenenza nella storia, non ci sono stati tramandati i nomi di questi combattenti dell'epoca. E quindi... E tu ce l'hai? No, perché non c'ero all'epoca. Pensavo c'era lo scoop. Mo sembra che c'ero all'epoca, ma non c'ero. Se volete me l'invento. No, in questa parte dello spettacolo, appunto, che racconta della storia degli Orazzi e dei Curiazzi, abbiamo parecchie cose belle, insomma, da vedere. Innanzitutto abbiamo Proietti che fa il suo solito personaggio del vecchio rimbambito, che è meraviglioso, lo fa anche in Negli occhi please, se non sbaglio, e qui è rivisitato appunto per fare il padre degli Orazzi. Ma abbiamo una chicca ancora più grande, che ascolteremo alla fine di questa parte della rubrica, di questa rubrica, che è Simona Patitucci. Simona Patitucci farà la parte di Orazia, la sorella degli Orazzi, ma che era stata coinvolta in una storia d'amore con uno dei Curiazzi. E chi è Simona Patitucci? Vabbè, Simona Patitucci nell'anno successivo, ovvero 1990, fece la voce della splendida... Rullo di tamburi, qualcuno me lo fa? Oh. Ariel! Lei era la sirenetta. Ma dai. Esattamente. Esattamente. Quindi soltanto la voce cantata, se non sbaglio. E quindi abbiamo la chicca delle chicche. Ora abbiamo il sesto motivo, che è un motivo che riguarda esclusivamente la redazione. Ovvero, guardatevi questo spettacolo perché così capite chi è stata la mia fonte di ispirazione da quando sono piccola a oggi. anzi, io direi che mi sono permessa anche di fare un piccolo excursus e di prendere spunto per, da una parte dello spettacolo per i futuri sfottò che mi vorrete fare. Io qui mi giro soprattutto dalla parte del maestro, perché sì, è vero che mi puoi sfottere, ma almeno lo scelgo io con che cosa. E quindi io signora, pregherei il maestro di mandare la mia fonte di ispirazione. È con permesso? Dovrei ascendere al trono, ma nonostante ciò ti ho chiesto il compermesso. Poi dicono che sono superbo. Grazie, ma non lo vedi? Ti ho detto grazie. So pure educato, a volte il luogo comune. Come l'altro luogo comune secondo cui io resterò famoso nella storia come il tiranno. Ma perché tiranno? Vabbè, faccio quello che mi pare a me. Vabbè. Ma perché tiranno? Questo non lo capisco. Sì, dategli il giubbio che tanto applausi. Adonte, quello che perdura per secoli può essere polverizzato nell'arco d'una notte. Ma a me sai quanto me ne frega. Io sono ricorrente, io ritorno. E io ritorno perché io piaccio. E io piaccio perché io so io. Nessuno è più de me. Grazie, grazie. Quindi prendi spunto, per favore. Bello. È stata veramente una forte ispirazione. Prego, maestro, so che vuoi dire qualcosa. No, sono basito. F4. La potente Virginia non si può contestare. Non puoi. Arriviamo dritti al settimo motivo, perché so sette re di Roma, quindi il settimo motivo ci sta e qui ci sta bene. Il settimo motivo è andatelo a vedere. Sì, il settimo motivo di... Certo, il settimo motivo è andatelo a vedere o vedetevelo, perché ve lo dico io, semplicemente. Ah. Perché è una cosa incredibile, io ci sto in fissa e quindi se un po' ha preso me, ecco, magari prende non qualcun altro. Non vedo perché non dovrebbe prendere tutti voi. Esatto, mica so speciale, cioè, oddio, sì, chiaramente sì. Mi rimetti tutta quella parte? No, scherzo. Nessuno è più debole. Hai sbagliato, va bene, dicevo. Lo sapevo. Quindi... adesso che abbiamo concluso la prima puntata di All'Epega, di cui io sono iper felice, felicissima, ci sentiamo Simona Patitucci, perché dove c'è Ariel c'è anche mamma sua. Quindi prego, maestro. Veniva sempre a Roma col cavallo e una fronna de quercia tra i capelli, c'aveva una collana de corallo e l'occhi belli neri ieri sarelli, coevo l'uva sotto al pergolato, rimasi imbambolata a rimirarlo, pareva proprio pollo spiccicato, un dio da quelli sopra il piedistallo, io sono da te quanto era bello, me intesi tutta quanta friccica. Veniva giù dal banco, era de fora, nel senso che parlava forestiero, veniva tutti i giorni a una cert'ora e me voleva bene per davvero. Adesso non c'è più, l'hanno ammazzato, e poi sape chi è stato, mio fratello, è stato proprio quello scellerato, fratello che fa rima con cordello. Di me, ne manco una parola, più forte, 100 celle Avenger, è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers alle 6:31 di questo sabato 16 aprile 2022. Era proprio uguale, Ariel, l'ho messo apposta perché lo spottino, perché era, mi ricordava esattamente Ariel, questa versione di La Patitucci, giusto? No, non ti puoi auto cosare così. Ma quella era un musicista, sì, Patitucci. Sì, Simona Patitucci. Ah, una volta che cito una cosa e non mi sbaglio. Niente, siamo riusciti a fare la toppa uguale. Comunque, che cosa succede? Che tocca a me, per quello forse prendo le toppe così. Patitucci. Niente, avevo già detto, avevo letto qui. C'era, cioè, scritto, sei praticamente Internet Explorer. Devi fidare del digitale. Lo so che il cartaceo non mente, perché effettivamente ci vuole qualcosa. All'epoca usavamo queste cose. Io ce l'ho il bianchetto. Gli ho chiesto ai miei di comprarmi il bianchetto perché l'ho finito e non lo trovo più quello buono che. Non fanno più i bianchetti da una volta. È verissimo. Capisco. Sta di fatto che arriva il momento in cui, diciamo, si unisce un po' l'attualità anche alle necessità di Radio Forte di autofinanziarsi. Questa trasmissione è offerta da Bazzai, voglio una vita così, affidatore così, se la di Bazzai. E quest'oggi che cosa ci cura Parkside? In realtà è una grande azienda che comunque si prende a carico grandi cause. Noi adesso stiamo qui a fare una trasmissione leggera, ma ovviamente non ignoriamo ciò che accade nel mondo. Ciò che accade nel mondo è che la scuola di musica non ha un maestro di pianoforte. Tutti lo hanno notato, molti vengono a chiedere. Noi siamo in un silenzio stampa un po' imbarazzante, per cui anzitutto abbiamo uno spot confezionato problemi. Da Parkside in proposito. Al piccolo Matteo è stato tolto il maestro di pianoforte quando era solo agli inizi. Matteo ora non ricorda più gli accordi del suonato bene. Ti ricordi? Ho detto di no. Come lui, altri allievi della scuola di musica forte rischiano di non sapere suonato bene. Che vai blaterando? Per aiutare Matteo, dona al canale Telegram una dritta, un numero, qualcuno da stalkerare, poi ci pensiamo noi. E dona a Matteo un'ora a settimana di lezioni di piano. Chi stè? Matteo non può più aspettare. E veramente quando le faccende di 90 grazie. Minuti adesso gli applausi. Quando le faccende ti toccano da vicino, mi sono commossa, povero Matteo. Ti senti un po', povero un po' preso. Infatti io poi, cioè, capita che ci si senta soli in queste cose, ma io so poi di non essere solo, e che 100 Celle Avengers non è sola nel trovare aiuto, soprattutto nei grandi artisti che sono un po' i nostri fan VIPs, che spesso contribuiscono alle nostre sigle con dei brandelli. Questa volta io ho chiesto di più, ci siamo visti, ci siamo sentiti, perché la questione era un po' importante per tutti, e quindi niente, questo che vi vado a proporre, diciamo, è il risultato, una canzone che ci deve unire tutti, deve unirci nel donare una dritta al forte per trovare un maestro di pianoforte, e niente, le parole forse sono superflue, quindi andiamo all'ascolto di questo contributo da Artisti Uniti per Scuola di Musica Forte. Quanto è che mi chiedo tra me e me, sì, se possa mai fermare il tempo, questo grandioso firmamento di stelle che son come te, ma com'è che a te non ti ho mai visto? Non sei quello dell'anno scorso, no, c'era un altro qui al tuo posto. Quando innocenti, quante menti vanno via. Oh, miss you, per parlo di te, ci credi? Ma no, ma dai, non ci credo, no. So che io non cancellerò mai il tuo numero dal web. Non dura, sa per la generazione futura. Io questa cosa non va, non gli imparasso nel pia. Come può farlo studiare a fare senza di te? Perché un maestro lo sai che ti può dare tanto. Può insegnarti anche solo come andare a tempo. Cervelli in fuga passati da qui, i tanti maestri a vicenda di C. Il primo se non erro fu proprio Carlo Ferro, poi venne Federico, che gran fico, ma insomma a colmare sto divario per un po' ci fu Ilario, che ci disse non dimenticatemi, mentre qui nel frattempo arrivava Benjamin Simone Colasanti. Le ha combinate tante, lo rimpiango quasi come Andrea, ma non ricordo il cognome. Fine maestro Daniel, giallo roscio come rame, ci saluta con la mano il nostro ultimo moicano. Sette accogli, i re di Roma e 88 folli, tasti che sono bianchi e neri. Ti ricordi? Tu non c'eri. Chi insegnerà pianoforte al forte? Tu che sai fare tante volte. Sai cosa è il circolo delle quinte? Dai, vieni qui, dai. Tu insegnerai pianoforte al forte. Se vorrai forte piano al piano, basta che sia qualcosa più di un suono bar. Se non darai ciò che promettevi, sempre fare come levi. Vinderti morto, vinderti pazzo, e non insegnare un tonto. Prima o poi la sorte ci manderà un maestro al forte che insegnerà fino alla morte il pianoforte. Gli applausi! Ma insomma il maestro di pianoforte è tipo il nostro maestro di arti oscure che cambia ogni anno, com'è? Forse abbiamo drammatizzato un po', però diciamo. Ma ci piace, quanto ci piace drammatizzare. Ma questa batteria, questi strumenti, che belli, maestro, veramente che bella arrangiamento. Allora, facciamo un appello con questo veramente accorato, diciamo. Tanto siamo solo troviamo un maestro di pianoforte per la scuola di musica forte. Io che ho visto il nascere questo pezzo, comunque intanto complimenti per l'assolo di chitarra che fino a ieri non c'era, oggi era Chico, era Chico che ci ha mandato un assolo. No. Fatto apposta, grazie Chico, grazie Piero. Bravi. Bravo. Capolavoro. I nostri maestri di piano ne saranno entusiasti e dovranno assolutamente ascoltarla. Un saluto da Luciano Ligabue, state ascoltando Radio Forte, questa è 100 Celle Avengers. Questa era per provare che non bugiardiamo nessuno. Prego. Ma Daniel ha ascoltato questa, il maestro Daniel ha ascoltato questo pezzo? Ancora no, vorrei inviarlo ai sette maestri mediato di Roma. Proprio. Spero che il messaggio li raggiunga, la nostalgia, perché comunque è una finestra aperta anche per chi c'era, cioè Speriamo in un prossimo, un ritorno, ma anche un grande ritorno di uno dei sette re, tu lo stilio, chi ve pare, Numa Pompilio. Va bene tutto per chiudere questa stagione e portare gli allievi al saggio, il piccolo Matteo e anche gli altri. Molto bene, molto bene. Puntiamo sul gol dell'ex. E anche Patrizio Gallo. No, non è vero, ci stava bene con Roma. E niente, in questo momento mi sento obbligato, anche se è bello quando lei entra in voce, facciamo finta che ne so, mando uno stacchetto e lei rientra in voce. E Radio Forte, Centocelle Avengers, madonna ragazzi quanto mi piace fare le entrate. Niente, oggi applausi per tutti. Non mi dovevate mettere vicino il pulsantino? No, è vero, non lo devo dire che c'è un pulsantino degli applausi. Non fare applausi così. Applausi spontanei. E come avete capito, è il momento del nord, del nerd. Sigla! Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il Radio Forte Centocelle Avengers, c'è una rubrica dotta che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Nerd del Nerd! Grazie a Nord del Nerd. Su Centocelle Avengers. Buonasera piccoli nerd. Come hai spoilerato la nostra Virgi, oggi parleremo anche noi del buon Luigi Magni e in particolare della trilogia papalina, cioè tre film, uno del 69, uno del 70 e uno del 90, rispettivamente Nell'anno del Signore, In nome del Papa Re e In nome del Popolo Sovrano, nei quali ricorre il tema dell'amore e odio che c'è tra il popolo, l'aristocrazia romana e il potere pontificio nel periodo del Risorgimento. Ammazza, bello. Hai visto? Bello tutto, eh? Il film che io ti propongo sempre che tu mi... No, vediamoli, mettiamoli subito nella lista. Sì, perché sembra serio, voi farite. Quindi, sì. Ci passiamo la serata. Vai, sono curiosa. Il più coinvolgente, a mio parere, è Nell'anno del Signore, ambientato il primo della trilogia, ambientato nella Roma del 1825, che vede raccontata la vicenda dei due carbonari Targhini e Montanari, accusati di omicidio per l'accoltellamento del sor Filippo Spada, che aveva fatto la spia a proposito dei compagni carbonari. Il tutto condito ad arte grazie alle grandi presenze di Nino Manfredi nel ruolo di Cornacchia, che, mascherato da ciabattino ignorante, si rivela poi essere pasquino, abile e caustico poeta epigrammatico, e Sordi nel ruolo del prete, che cerca di salvare le anime dei due ragazzi, ma con poco successo. E invece con la pazienza io mi metto qui e cerco di salvarvi l'anima. E finché non vi sarete pentiti, niente esecuzione, questo è nel diritto del nostro ordine, figli miei. E allora per l'esecuzione le toccherà aspettare, magari un par di cent'anni, chi se prende? Sì, lo so, questo lo dicono tutti, ma con la pazienza si ottiene tutto. No, un momento, la pazienza richiede tempo. E a me chi mi corre appresso? Anzi, datemi una sedia perché ho già capito che con voi qui la questione si risolve in piedi. Ragazzi, voi che siete romani, la conoscete la leggenda di Pasquino? Ci siete mai stati alla statua parlante in piazza di Pasquino, appunto al centro? No. Guido sì, ma secondo me. Io sì. Ma certo. Ah, allora un po' di romanità c'è qui. Piazza Navona, all'angoletto. Ma Guido fa le guide per Roma, quindi cioè, non fa testa. Gli avranno dato... Davanti c'è un posto dove si mangia bene. No, vicino al ghetto. Adesso non diciamo altra qualità rispetto a qua. Pasquino in realtà è più un ruolo che una persona. Ad un certo punto sulle statue capitoline cominciarono a spuntare questi epigrammi anonimi che inveivano contro il potere, specie quello dei preti e del papa, ma in generale contro i poteri politici attribuiti a quest'entità, Pasquino, che probabilmente nel tempo fu tante persone diverse. Insomma, la versione romana del V per Vendetta, raga. Tuttora, sulla statua di cui sopra, che si trova appunto in piazza, rinominata piazza di Pasquino, vengono appese poesie satiriche, in una sorta di guerriglia contro il potere a colpi di penna e che viene dal basso. Ma sta di che non è Pasquino, non è più Pasquino. Beh, considerato che va avanti dal 1800, sta storia. Queste cose non me le devi dire così, però. Come Babbo Natale, cioè, esatto. Cosa là, non esiste. Che cosa? Babbo Natale non esiste? Beh, no. Ma lei ci mangiava regolarmente, lo conosceva. Vabbè, comunque, torniamo a Betta. Bambini, questa cosa non l'avete sentita? Non è vero. E dicevo, questa sorta di guerriglia contro il potere che dà voce ai deboli, che, dimoselo, a una voce non ci hanno mai avuto diritto. La dialettica di Manfredi aiuta il ritratto di Pasquino, coraggioso rivoluzionario che dal piccolo cerca di cambiare il mondo. Ma sentiamolo un pigramma di Pasquino. Perché indugiamo tanto, Padre Santo? Volemo segar collo ai carbonari, targhini e montanari. Erboi aspetta e ci diventa vecchio, dategli sotto. E buonanotte al secchio. Hai capito? Ho capito, sì. Sei passato al nemico. E io mo che faccio? Te sputo o te do un carcio un buco? No, ma a te te pare facile, ha capito? E allora fate conto che gli facessero la grazia, li rimannassero liberi. Che direbbe sto popolo de core? Il padrone è buono. Te tira l'orecchia quando fai il matto, se capisce, ma all'ultimo è come un padre che perdona. E che diventano d'Arghini e Montanari una volta assorti, che so? So due vivi. No, due fregnoni. Beh, meglio che essere morti. Eh no, perché li morti pesano. E morti così, senza delitto, con una burla di processo, pesano più peggio. E col tempo diventano la cattiva coscienza del padrone. Sì, però a quei due che io spiega che è meglio se morano. Loro ce lo sanno, perché è solo il sangue. Solo sul sangue viaggia la barca della rivoluzione. Hai capito adesso? Mica tanto. Non fa niente. Capirai col tempo. Raga, non so a voi, ma a me questo mi dà sempre i brividi. L'hai visto il film? Veramente. Sì. No. Male, Gabri, ragazzi. No. Io no, io non sì, l'ho visto. Io. Comunque dà brividi. Lo trovate anche su YouTube. La colonna sonora del film è del maestro Armando Trovaioli, con la collaborazione della vocalist Edda Dell'Orso, celebre per il tema di Giuditta, la cui voce viene usata praticamente come uno strumento, come fece d'altronde anche Morricone. I vocalizzi femminili che ricordate nei film spaghetti western, che rendono tanto tipiche quelle pellicole, sono proprio della Dell'Orso. Chiuderò la puntata in maniera un po' atipica, non mandando stavolta un pezzo tratto dai film di cui ho parlato, ma visto il tema e un po' il collegamento con le Pasquinate, mi permetterò di farvi sentire un pezzo di un gruppo romano che adoro, Il Muro del Canto, che incarna molto la poesia di Roma. Son morto per sbaglio. Son morto per sbaglio. Il Muro del Canto. Per errore del destino, pena svista, pena abbaglio. Non ero io che stasera vedo a guardare dall'alto, dalla nuvola de smog. Dentro un cielo grigio amianto. E ce lo so perché non c'ho avuto manco il tempo di capirlo, che passavo a miglior vita, volando via oltre il terminillo. Non mi hanno dato manco modo di salutare la gente cara, mi hanno mandato in direttissima a riempir voto de una bara. Sopra il libro dei morti ci stanno quelli prenotati, i malati, i condannati, tutti a imminente fine destinati. Ma poi capita che a volte ci stanno pure spazi vuoti e c'è infine non i nomi di noi, poveri ignoti. Certi in fretta, vincitori dell'infame lotteria, che in un battito di ciglia dal mondo tuo te spazza via. Fai un respiro e manco il tempo di buttare l'aria di fuori, che una voce dal profondo te lo annuncia. Adesso mori. Più grande di sparire così in fretta è che a casa c'è mia moglie sul divano che m'aspetta. Se dirà ma com'è che tarda tanto e che non torna dritto a casa, speriamo che almeno si ricorda di passare a fa un po' di spesa. Ma per chi aspetta non c'è scampo, l'orologio va più lento, le lancette so pesanti e ogni attimo è in tormento. Se qualcuno mi capisce, mentre strillo da sto cielo, gli chiedo solamente d'esaudirmi in desiderio. Corri dritto da mia moglie, dagli un bacio da parte mia, die che se fosse stato per me, non me ne sarei mai andato via. Estás escuchando Radio Fuerte, mijito! Cento celle avenge. Oh ma! E sempre in diretta su Radio Forte, Cento celle Avengers. Negli ultimi 10 minuti ci è rimasto giusto il tempo di salutarci e darci dei consigli per il futuro, no? Poi se per pensiamo, i futuri acquisti. Se pensiamo al futuro, veramente alla prossima puntata, che capita il 30 aprile, cioè vigilia del 1° maggio, cioè che è forte, diciamo, il giorno un po' più, diciamo, laborioso dell'anno, se vogliamo. Insomma, non so come andrà questa puntata del 30 aprile, lanciamola uguale. E, per esempio, io avevo dei consigli per gli acquisti per i cigni di Balaga, che almeno non, sì, si, sì, non si, sì, prepara così all'ultimo come fa di solito. Intanto sentite in sottofondo, c'è un rumore, c'è un rumore antico il sotto. Campionamento in digitale dell'apertura di un uovo di Pasqua, perché a noi breve. Comunque cioè, io personalmente non è che, però pare che al Forte addirittura non si faccia il mercatino. Mi confermate che domani non c'è il terra terra? No, non c'è. E quindi la Pasqua, niente, regna, nonostante che a Pasqua con chi vuoi, pare che qua sia importante. C'è Guido che scarta l'uovo. E, posso scartarlo? Come dicevo, appunto, per far sì che Cigni di Balaga non si presenti all'ultimo, io avevo intanto delle cose che venute dal popolo, dai messaggi degli ascoltatori. Grazie Guido, lasciami un pezzetto. Allora Guido, per esempio, tu sei un po' dell'epoca di questo pezzo qua. No, io non ascoltavo questo. No? Zero? No, va bene, quindi coglierai ancora di meno, perché quello che volevo dire è appunto che cioccolata. Notavo delle assonanze. Allora spacchetto l'uovo, è un segno del destino, cioccolata. È un pochino, un ci pochino suona. Lo poi, prende, vabbè, fate sì, come lo mi prende. Pare. Io lancio solo i sassi a Cigni di Balaga. È un bel input. Lancio i sassi, lapidiamo Cigni di Balaga, i consigli per gli acquisti per la prossima puntata. Ci teniamo, no, non mangiamo, ci teniamo cioccolata. Questi che erano i Level 42 Lessons in Love. Mixati con la rappresentante di lista. Con Mentre mangio cioccolata. Mentre sì, mangio cioccolata. Ciao ciao, pezzo che non avrei sentito per niente nell'ultimo periodo. Nelle radio. Aveva proprio bisogno di essere spinto da noi, che siamo una radio appunto libera. Del mainstream proprio. E quindi appunto dicevo in chiusura, intanto ricordando sempre che possono trovare gli ascoltatori questi momenti diciamo cristallizzati in un file digitale, sì, sul anche sito detti del in Forte, podcast, in podcast. Sul sito fortepremestino.net/radioforte. 100 Celle Avengers. 100 Celle Avengers, vabbè, mo per dargli proprio tutte le dritte, poi se vai su Radio Forte ci sono anche tante altre trasmissioni. Per esempio c'è Pancrazio, che è una trasmissione che volevamo fare lanciando... Pancrazio, no, non regà, c'è più. Pancrazio, l'ho capito adesso. Cioè, dopo fine due settimane e mezzo. Cioè, vabbè, esatto. Abbiamo qui l'autore. Abbiamo un'idea del perché Pancrazio forse non si. Ma si riproporrà con. Non è pronto, il pubblico ancora non è pronto. Ecco. Vabbè, io tra le speranze che volevo lasciare in chiusura c'era anche il fatto che Guido. Comunque sarà una voce non solo sponsorizzata da noi, da 100 Celle Avengers, che siamo comunque una trasmissione di nicchia, ma lui avrà uno spazio suo. Quindi posso tornare, non ho detto cose sconvenienti. L'importante è che non lo fai nella nostra diretta, perché poi non sempre riusciamo a gestirti. Oggi devo dire che sei stato anche troppo gestibile. Un attimo che stacco il collarino dell'uovo. Ma allora ci siamo, siamo all'apertura. Guido freme, altro che Pancrazio, vuole solo l'uovo. Vado a sentire. Per il pubblico audio stiamo per scattare un uovo di Pasqua degli Avengers. Per il pubblico video siamo su Jitsi. Ciao, in questo momento sono ancora Angelo e Silvana da Cosenza su Jitsi e Null Pointer direttamente da Napoli, presenti, che ci seguono. Approfitto per mettere la sigla degli scartati, che è una rubrica che non facciamo più, ma ci sta bene. Posso? Ma è perfetta. Scusa, che mano a me? Scartato. E niente, questa era in teoria la sigla che dedicavamo ai pezzi che venivano silurati dai maestri, quindi che non venivano bocciati per quanto riguarda il saggio, l'esibizione, proposte degli allievi. Ce ne sono due nuovi silurate, bocciate mercoledì. Ma questa volta ce ne sono, cioè a bizzeffe, soprattutto quando si lascia andare a certi proponenti, tipo appunto Virginia, la mia E poi cioè, se si dà un nuovo di Pasqua in mano a Guido, ma sul stavo... finale di appunto scartato di cioè, partita se non apri scartato, apri rompi rompi vale qualsiasi cosa, cioè, faccio vedere che c'è dentro un coltello, qualcosa, un'arma, un... no, usa la cattiveria, tira da un lato e dall'altro. No, io non sono più cattivo da quando sto con voi, sono diventato un'altra persona. Io non credo comunque. Mi hanno censurato, questa non è la radio libera, sì, non è la radio libera. Allora, questo ricordati, era Guido di qualche puntata fa, sì, per esempio. Ma non sei l'unico, cioè sono vari ospiti che c'hanno. Beh, dobbiamo arrivare comunque, scusami, prego, alla sorpresa almeno, Guido. Abbiamo 4 minuti. Vado da Don Cazzotto. Dimmi che tutto sto rumore poi era per nulla. Allora poi veramente... Un attimo. Vado, cioè, uno si impegna a fare scalette. Mi alzi il volume sul mio microfono? È altissimo, Guido. È altissimo. Guido, con cosa stai aprendo questo? Con vabbè, fallo, l'hai fatto. Lo mangi in diretta. A pugni. Lo mangi, ma ci devi far sapere qual è la sorpresa. Cioè, deve avvenire tutto entro dei tempi che sono dettati dal broadcast. Guido ASMR. Cioè, veramente. Ma cioè, siamo proprio alla farsa. Sorpresa. Un attimo, c'è un contenitore di plastica dura qua. Perché ovviamente quello che voi non vedete in radio è che l'uovo è l'uovo degli Avengers, ovviamente. Un attimo, Ah, ecco. E quindi siamo particolarmente ansiosi di scoprire cosa contiene un piccolo Iron Man. No, magari. Ci sono degli oggetti in plastica, dei manufatti in plastica. Cosa? Intanto c'è un pupazzetto da montare. Non riconosco chi sia questo personaggio. Facci vedere. Voi che siete abbiamo fatto aprire l'uovo a Guido, che è l'unico che degli Avengers veramente neanche, cioè pure voi insomma poi relativamente. Sì. Ma... infatti io lo cedo subito a te, dovrei siamo spiegare che ignoranti. Cos'è. Black Panther, ok. Black cioè, Panther. Parliamo, usiamo questi ultimi 3 minuti per parlare di Black Panther, che comunque è un po' la parte diciamo, afroamericana del panorama. Cosa? Avengers, no. Un supereroe che trae sono le gambe di Black Panther. I suoi poteri dal vibranio, che è anche il materiale dello scudo di Capitan America, nonché della corazza di Iron Man. Chiedo scusa. È il materiale più duro dell'universo e niente, che è fabbricato in Wakanda, e dove appunto Black Panther, niente, non mi avete ma che potere ha castagne. Black Panther? Black scusa. Panther dà delle castagne, cioè ci stanno quei supereroi che fondamentalmente menano come i fabbri, però poi gli devi dare diciamo un colore, un fascio di luce quando menano, però mena, fondamentalmente mena, è un po' Panther ovviamente, si zompa eccetera, però ecco risata. Diciamo che carica che ridere carica le pizze a pallettoni. Vabbè, niente, volevo dare della cultura all'ultimo. È scusate. Stato bello parlare degli Avengers. Voi all'ultimo. Avete costretto me a aprire l'uovo insieme a Guido e vi siete beccati. Guido la si è preso l'uovo. A questo punto possiamo dare i contatti per la prossima volta, maestro, perché tanto ci siamo. Ma, sì, vogliamo dire che sì, appunto abbiamo sempre quel famoso canale che risponde al nome di Telegram, ma che comunque tutti conoscono ormai come mezzo di comunicazione. Voi ricercate col vostro motore di ricerca la sigla, Radio Forte 100 Celle Avengers e troverete noi. Ma adesso sigla. Ciao. Ciao a tutti. Stay tuned, we'll be back soon.